Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io naturalmente non posso che esprimere rammarico, un rammarico reso più forte dal fatto che si è detto esplicitamente che le proposte che avanzavamo erano interessanti, che abbiamo avanzato, sono interessanti e innovative. E non capisco francamente perché ci si debba precludere al proseguo di un confronto che avrebbe potuto portare a un'intesa e a consentire al centro-sinistra di presentarsi unito agli elettori. Un Piero Fassino, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, decisamente avvilito dopo che la sua mission, a lui assegnata da Renzi, di ricucire una coalizione centrosinistra si è rivelata davvero impossible, visto che parrebbe che oggi sia stata definitiva la rottura tra MDP, i fuoriusciti dal Partito Democratico, e il Partito Democratico stesso, no? Quindi questa coalizione non ci sarà, ci sono troppe visioni della vita, del mondo e di temi cruciali incompatibili, e quindi invece MDP farà una coalizione con Sinistra Italiana e con Possibile, quindi una coalizione a sinistra del PD che sia alternativa al Partito Democratico. Ne parleremo, così come voi potete naturalmente commentare questo fatto e gli altri fatti principali di cui vi parlerò questa sera. Potete commentare pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, che numero per messaggio WhatsApp. Parleremo anche di vaccini, visto che la consulta ha respinto il ricorso della Regione Veneto. Ci occuperemo anche della sentenza della Cassazione che dice che il matrimonio rom con una quindicenne è un reato in Italia con una minorenne. C'è la Champions, insomma tante cose su cui potete esprimere le vostre opinioni, ripeto, pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666 per WhatsApp ed SMS. Ma prima di tutto, prima di affrontare questi argomenti con gli ospiti, c'è sempre il racconto in sintesi della giornata. Gli orrori nella guerra dell'ex Jugoslavia, ergastolo per Mladic, l'AIA condanna il boia di Srebrenica, responsabile del massacro di 8.000 musulmani bosniaci e dei morti di Sarajevo. Vaccini, è giusto che siano obbligatori per la salute della collettività, così la consulta respinge i ricorsi del Veneto. Berlusconi, la Corte di Strasburgo decide sul futuro del leader di Forza Italia, oggi l'udienza sull'incandidabilità, ma per la sentenza bisognerà aspettare mesi. Centrosinistra, MDP e Sinistra Italiana annunciano nessuna intesa col PD in vista delle politiche, ma una lista unitaria alternativa. Sentenza della Cassazione, il matrimonio rom con una quindicenne è un reato. La sfida dei dipendenti di Amazon, sciopero nel Black Friday, protesta a Piacenza, chiedono migliori trattamenti economici. Uber, il procuratore di New York apre un'inchiesta sull'hackeraggio di dati ai danni di autisti e utenti. Cinema, nasce la categoria di film non adatti ai minori di 6 anni. Calcio, per la Champions League in campo Juventus e Roma contro due spagnole. Partiamo quindi dalla condanna del boia di Srebrenica da parte del Tribunale Internazionale dell'AIA. Condannato all'ergastolo per una lunga serie di reati che lo definiscono come l'uomo che tra il 92 e il 95 è stato braccio e mente delle peggiori atrocità commesse durante il conflitto nella ex Jugoslavia. 3 anni di assedio a Sarajevo, lentamente strangolata, ed il massacro di 8.000 musulmani nell'enclave di Srebrenica, la peggiore esecuzione di massa in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. Il giudice Alfonso Urie ha descritto per quasi un'ora, entrando nei dettagli, il ruolo avuto dall'ex generale nei diversi momenti. Ha descritto l'uomo che è entrato nella guerra come maggiore di stanza in Kosovo e ne è uscito 4 anni dopo come comandante supremo degli 80.000 uomini dell'esercito dei serbi di Bosnia. Se per molti quello di oggi è un atto dovuto alla storia, non mancano però le critiche di chi considera la sentenza una vendetta antislava. In patria e non solo, il 74enne militare resta per molti un difensore della causa serba, una divisione lacerante che il presidente serbo Vučić, equilibrista con un passato ultranazionalista, cerca ora di ricomporre nella diplomazia. Nessuno è sorpreso da questa sentenza, ha detto Belgrado, ma ora il nostro compito è quello di guardare avanti. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Invece in Italia il tema dei vaccini, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni prospettate nei ricorsi della Regione Veneto sull'obbligo dei vaccini. Secondo i giudici, le scelte su questo ambito spettano al legislatore nazionale. Inoltre, il passaggio all'obbligo dei vaccini si giustifica alla luce del contesto caratterizzato da un progressivo calo delle coperture vaccinali. Il governatore del Veneto, Zaia, ne prende atto e dice: ho difeso un modello fondato sulla libertà di scelta e sul dialogo con le famiglie, ora si passa alla coercizione. E intanto Intanto i contrari, i Novax ai vaccini, minacciano disobbedienza civile. L'attesa sentenza su Berlusconi. Dopo 4 anni d'attesa per il leader di Forza Italia è arrivato il giorno dell'udienza alla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, però per la sentenza ci vorranno ancora molti mesi. Tra i 6 e i 9 mesi, tanto si dovrà aspettare per conoscere il verdetto della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul ricorso presentato da Silvio Berlusconi contro la decadenza da senatore e l'incandidabilità per 6 anni sancite dalla legge Severino. Nella prima e unica udienza dedicata al caso, i giudici di Strasburgo hanno ascoltato i legali delle due parti. L'applicazione della legge non è stata arbitraria e i diritti dell'ex premier sono stati rispettati, ha detto nel suo intervento la rappresentante del governo italiano. Per i difensori di Berlusconi, invece, la legge è stata applicata a fatti avvenuti 15 anni prima della sua entrata in vigore e la decadenza dell'ex cavaliere è stata votata da un Senato composto a maggioranza da suoi avversari. Da Merano, dove si trova per un periodo di riposo, Berlusconi ha fatto sapere di sentirsi sereno e fiducioso ed ha ribadito che, candidabile o no, sarà comunque in campo nella campagna elettorale per le politiche del prossimo anno. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dopo l'udienza di oggi, sono varie insomma le possibilità. Quali sono e come funziona la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo? Le domande, arrivate da 4 giudici su 17, vertono su modi e tempi della decadenza di Berlusconi e sono indicative del funzionamento della Corte, che dovrà stabilire se l'iter che ha portato alla sua incandidabilità per 6 anni abbia violato principi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Il caso è stato assegnato all'organo più alto, la Grande Camera, che non prevede appello, ma su quello che è il fattore più importante per la politica. I tempi della decisione, in media 6-9 mesi, da Strasburgo hanno già fatto notare che non possono prendersi in carico le urgenze dei singoli paesi. Se la Corte dovesse respingere del tutto il ricorso, Berlusconi sarebbe incandidabile fino al 2019. Se fosse accolto, l'Italia dovrebbe applicare subito la sentenza. Ma le opzioni, calcolano i difensori dell'ex premier, potrebbero essere anche una quindicina. I giudici potrebbero, ad esempio, condividere la decadenza e non l'incandidabilità, o il contrario, o considerare eccessivi i 6 anni. Se la sentenza non arrivasse in tempo per le elezioni, resterebbe in via teorica la possibilità di sottoporre all'ufficio elettorale una candidatura sub iudice. La decisione dei giudici della Corte Europea è a maggioranza e i contrari potrebbero ratificare il proprio dissenso, che sarebbe comunque un'indicazione politica. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E allora restiamo sulla politica, però col centrosinistra. MDP e Sinistra Italiana sanciscono la rottura col Partito Democratico sull'alleanza elettorale, soprattutto per le differenze sui temi di fondo, in particolare il lavoro, la sanità universale, il no a una campagna elettorale su meno tasse per tutti, e annunciano per il 3 dicembre il lancio della lista unitaria per l'alternativa a sinistra. Ci sarà Grasso, il nostro candidato, dicono, però il portavoce del Presidente del Senato chiarisce non ha sciolto ancora la riserva sul suo futuro, quindi Grasso ci sta ancora pensando. Rinvio domani intanto per il decreto sui collegi elettorali che doveva approdare al Consiglio dei Ministri e torneremo a parlarne, come vi dicevo prima. Poi ci sono le pagelle di Bruxelles sulle manovre dei paesi europei. Il progetto di bilancio italiano è stato ritenuto a rischio di non rispetto del patto di stabilità. Sotto monitoraggio insieme ad altri 11 paesi per squilibri eccessivi. Poche sorprese nella pagella europea sui nostri conti pubblici resa nota dalla Commissione. L'Italia resta a rischio inadempienza sugli obiettivi di bilancio e vedrà una nuova valutazione del proprio debito in primavera. Nessuna procedura di infrazione per debito eccessivo, insomma, almeno per ora, anche se maggio resta un'ipotesi altamente possibile. In quei mesi i conti Bruxelles li farà direttamente col prossimo governo. Per la Commissione il persistere del debito elevato è motivo di preoccupazione, ma sono tanti gli avvertimenti espliciti che Bruxelles mette nero su bianco in una missiva inviata a Roma. In primis è sulla manovra, è cruciale che l'Italia adotti la manovra 2018 senza annacquare le sue disposizioni principali e che venga attuata in modo rigido per centrare uno sforzo strutturale pari allo 0,3% del PIL, ha esplicitato il vicepresidente della Commissione Dombrovskis. Dombrovskis elenca altre sfide per il nostro paese: crescita della produttività, livelli di debito pubblico e privato ancora alti, elevato livello di NPL nel settore bancario e infine sfide nel mercato del lavoro. Dal Ministero dell'economia rispondono: il governo è fiducioso che attraverso il dialogo costruttivo con Bruxelles potranno essere chiariti diversi punti di vista senza la necessità di ricorrere a ulteriori interventi. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la sentenza della Cassazione. Lo Stato italiano non può ammettere spose quindicenni, anche se si tratta di tradizioni radicate, accettate nella propria comunità e quell'unione non è vissuta come una sopraffazione, il matrimonio con i minori non è ammesso nel nostro paese. La Cassazione così ha confermato la condanna a un anno per atti sessuali con minore, con le attenuanti generiche, di un uomo sposato con un matrimonio rom a una ragazza che non aveva compiuto ancora 16 anni. Tra poco poi ci ritorniamo per chiarire come funziona, che cosa dice in questo senso appunto la giurisprudenza italiana. E poi si parla anche di Uber. Il procuratore dello Stato di New York ha aperto un'inchiesta sul furto dei dati di oltre 57 milioni di clienti di Uber nel mondo, di cui 600.000 conducenti. L'hackeraggio, tenuto nascosto per oltre un anno, è stato rivelato ieri dal nuovo capo della società, in realtà una nuova capa, Dara Khorovsvashi. Uber ha ammesso oggi che per tenere nascosto il furto nell'ottobre 2016 di questi 57 milioni di dati ha pagato gli hacker, ha pagato un riscatto. Lo riporta il Wall Street Journal. La società ha inoltre reso noto che ha licenziato capo e vice capo della sicurezza. E poi la sfida dei dipendenti di Amazon proprio in vista del Black Friday, cioè del venerdì nero dello shopping, uno sciopero nel giorno di Black Friday, appunto quello successivo al ringraziamento che negli Stati Uniti è tradizionalmente dedicato ai saldi. Sapete che adesso c'è anche in Italia. Hanno deciso questo sciopero CGIL, CISL e UIL e UGL al centro di Amazon di Castel San Giovanni, vicino Piacenza, dove lavorano circa 4.000 persone. I sindacati denunciano ritmi lavorativi che non conoscono discontinuità e richieste altissime di produttività, ma la protesta non riguarda solo le condizioni di lavoro, piuttosto la richiesta di un migliore trattamento economico in linea con gli elevati ritmi di crescita del giro d'affari dell'azienda. E poi cronaca, la donna uccisa nel bolognese è stato un femminicidio, la svolta quindi nel delitto di Amarolo di Budrio. Non è stato Igor il russo, è arrivata la svolta nella notte di ieri quando il marito della vittima, messo alle strette alle domande dei carabinieri, ha confessato l'omicidio. Lui è Atos Vitali, 69 anni, giardiniere, ha ucciso a coltellate la moglie di 65 anni, Annalisa Cacciari. La procura di Bologna lo ha sottoposto a fermo e ora si trova in carcere. E poi il cinema, questa notizia, i decreti attuativi della legge cinema approvati oggi dal Consiglio dei Ministri prevedono un nuovo sistema di tutela per i minori e nascono così film non adatti ai minori di 6 anni. La categoria in base alla quale dovranno essere classificate le opere cinematografiche diventano quindi 4: opere per tutti, opere non adatte ai minori di 6 anni, opere vietate ai minori di 14 anni, opere vietate ai minori di 18 anni. Viene istituito un nuovo sistema di icone e di avviso per i contenuti sensibili, appunto violenza, armi, sesso, eccetera. Invece penso si adatta a tutti le partite che sono in corso per la Champions. Dario Ricci? Sì, buonasera da Torino. Intanto Roberta, dall'Allianz Stadium siamo al 31esimo di gioco, è 0-0 tra Juventus e Barcellona. Partita equilibrata come del resto dice il risultato, meglio la Juve nella prima fase di gioco, al secondo un tentativo di Douglas Costa, al 18esimo Dybala, l'uno col destro, l'altro col sinistro, bravissimo Ter Stegen, il portiere dei catalani, a bloccare in entrambe le occasioni. Barcellona che poi ha preso un po' il controllo delle operazioni, al 21esimo è andato vicinissimo al vantaggio con una punizione dalla tre quarti di Rakitic, nessuno tocca in area di rigore, pallone che carambola sul palo alla sinistra di Buffon, che nulla avrebbe potuto fare ma che è stato salvato dal montante. Barcellona che a sorpresa ha rinunciato all'inizio a Messi, pur dato tra i titolari, ma che Valverde ha scelto di schierare inizialmente in panchina. Juventus che invece fa meno di Chiellini, infortunato per un risentimento muscolare, di Mandzukic in panchina, quindi difesa 3 per Massimiliano Allegri, tra più attivi Douglas Costa, lanciato titolare dal primo minuto. A Madrid invece 0-0 tra Atletico Madrid e Roma. Nel girone della Juventus importante anche lo 0-0 che sta maturando a Lisbona tra Sporting e Olympiacos, perché dovessero rimanere così i due risultati di Torino e Lisbona, la Juventus sarebbe già qualificata agli ottavi di finale, così come la Roma. Ma ancora è lunga, 32esimo di gioco, 0-0 a Torino tra Juventus e Barcellona. Grazie Dario Ricci, in diretta da Torino, poi ci ricollegheremo per sapere come procedono le partite. Nel frattempo aggiorniamo invece chi sta viaggiando e poi cominciamo ad approfondire i vari temi con gli ospiti. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349 238 6666. C'è per esempio Maria che dice: il PD ormai è un partito di centro, non di sinistra, d'altronde ha perso la S 10 anni fa, il problema di quella parte di PD che si è staccata perché si sente ancora di sinistra, che purtroppo è frammentata e sparirà come è successo di Fondazione Comunista, Comunisti Unitari, SEL, eccetera. Ne parliamo tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Avete sentito il riassunto della giornata? Se avete acceso puntualmente alle 21, ricordatevi tutte le sere, puntualmente alle 21, poi rimaniamo insieme fino alle 22. Roberta Giordano sempre con voi per raccontarvi le cose più importanti, i fatti più importanti della giornata e poi anche per magari cercare di capire qualcosa di più di quello che avviene insieme agli ospiti. Tra poco torniamo sulla politica italiana, vedo molti vostri messaggi su questo, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per SMS e WhatsApp che è 349-238-6666. Per esempio Lino scrive: la sinistra rifiuta una coalizione renzicentrica, e beh, questo mi pare abbastanza chiaro. E poi invece altri ascoltatori, per esempio Cristiano dice: era inevitabile la rottura tra MDP e PD, ma lo hanno fatto tardi, spaccando e sparigliando, però hanno dimostrato di rischiare, di essere pronti anche a cadere, di cedere il passo alla destra, ma almeno senza mescolarsi in un ibrido penoso. Bene, tra poco questo, ma se c'è qualcuno che non avesse acceso puntualmente le 21, io ricordo comunque i fatti principali della giornata. Monito dell'Unione Europea all'Italia per il debito pubblico, ma il governo non corregge la manovra e il commissario europeo Dombrovskis avverte: niente dietro front sulle pensioni. E poi ergastolo per Mladic, l'AIA condanna il boia di Srebrenica, l'ONU dice è la quintessenza del male. E poi la consulta che gela il Veneto e dice sì all'obbligo dei vaccini, quindi respinge il ricorso del presidente Zaia. Berlusconi alla Corte di Strasburgo, mesi per la decisione, oggi c'è stata questa prima udienza per sapere se appunto sarà candidabile o meno. E poi intanto c'è la rottura tra PD e sinistra, di cui parleremo tra pochissimo. La sfida poi dei dipendenti di Amazon, che decidono di scioperare proprio nel Black Friday, protesta a Piacenza, chiedono un miglior trattamento economico. E poi il CONI, che lavora al dopo Tavecchio, Federcalcio in stand-by per il momento, sembra che ci sia una frenata sul commissariamento. E poi ci sono le partite di Champions con Juventus e Roma, che sono coinvolte con due squadre spagnole questa sera in campo. Io naturalmente non posso che esprimere rammarico, un rammarico reso più forte dal fatto che si è detto esplicitamente che le proposte che avanzavamo erano interessanti, che abbiamo avanzato, sono interessanti e innovative. E non capisco francamente perché ci si debba precludere al proseguo di un confronto che avrebbe potuto portare a un'intesa e a consentire al centro-sinistra di presentarsi unito agli elettori. E invece l'intesa non c'è stata e il centro-sinistra non si presenterà unito agli elettori, quindi come dicevo all'inizio questa mission affidata da Renzi a Fassino, a Piero Fassino, si è rivelata davvero una mission impossible, ancora più impossible di quelle affidate a Tom Cruise. È quella di provare, sondando un po' i vari protagonisti delle forze di sinistra, di costituire una larga coalizione di centro-sinistra, di andare insomma uniti alle prossime elezioni politiche che ci saranno in primavera. Ma anziché di una cucitura, avete sentito, si è trattato alla fine di una rottura che sembra definitiva. E questa frattura incomponibile è il risultato di più di un'ora di riunione alla Camera fra il pontiere del PD Piero Fassino, che però appunto si è dato molto da fare anche nei giorni scorsi, e questa delegazione della sinistra composta dal capogruppo di MDP al Senato Maria Cecilia Guerra e dal presidente dei deputati di Sinistra Italiana Giulio Marcon. Quindi adesso è ufficiale, MDP e Sinistra Italiana è possibile non entreranno nella coalizione che fa perno attorno al PD, ma faranno una lista unitaria della sinistra alternativa ai democratici. E qui saluto la nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara. Buonasera. E diciamo che hanno, lo dicevamo da tempo, insomma, visioni, programmi incompatibili, in particolare sul lavoro, la sanità universale, il no a una campagna elettorale su meno tasse per tutti, ma sentiamo Speranza di MDP che cosa ha detto, un passaggio. Non c'è stato nessun passo avanti, meglio essere chiari, netti, il PD non vuol cambiare, lo dimostra ancora in queste ore, rivendica, come è giusto che sia, legittimo, un'agenda politica costruita in questi anni, e noi siamo alternativi rispetto a questa agenda politica. Quindi alternativa a sinistra, Barbara, mi sembra che l'oggetto del contendere sia stato soprattutto l'articolo 18, no? Che oggi doveva essere passare al vaglio della Camera, ci doveva essere una modifica, doveva essere discusso, invece è stato rinviato anche questa discussione. Bersani ha detto questa è la pietra tombale del nostro dialogo con PD. Ma diciamo che sembra di essere tornati a, non lo so, a 15 anni fa, 10 anni fa, già il Partito Democratico, ma gli stessi DS, insomma, avevano, come dire, rivisto le loro posizioni drastiche sull'articolo 18, su un eventuale superamento dell'articolo 18. Adesso, insomma, l'articolo 18 è diventato l'elemento cardine per una rottura. Ripeto quello che mi dispiace ripetermi, quello che ho già detto nei giorni scorsi. Io penso che questa sia una rottura anzitutto personale, cioè sono delle persone che erano fino a qualche mese fa nello stesso partito, si è rotta questa comunità e quindi difficilmente si può ricomporre a distanza di poco tempo. Il merito credo che c'entri fino a un certo punto, cioè se io penso ad altri partiti, no? Lo stesso Partito Laburista, oggi guidato da Corbyn, ma fino a qualche tempo prima in Gran Bretagna, cioè lì convivono trotskisti ed è stato il partito di Tony Blair, cioè questo massimalismo, questo ritorno, devo dire, da persone come appunto Bersani, lo stesso Speranza o addirittura D'Alema, che insomma in passato è stato criticato per essere stato troppo a destra perché pensava più ai mercati finanziari è un po', mi sembra un po' non solo anacronistico, ma devo dire che è poco comprensibile per quanto riguarda il merito, anche perché in realtà poi Fassino oggi sul piatto delle cose anche importanti le aveva messe, sia sul fronte del lavoro, sul fronte ambientale, lo ius soli, il testamento biologico, però è evidente che appunto c'è una questione politica, questa è una legge elettorale proporzionale, di fatto MDP rinuncia alla parte maggioritaria, però punta tutto sul proporzionale e conta dopo le elezioni, e lo dicono anche dopo il voto vediamo, di potersi presentare al tavolo di eventuali trattative con una sua forza autonoma rispetto al Partito Democratico, questo è, mi sembra, l'elemento. Un po' la tattica, ho capito. Barbara. Beh, non è una tattica, è proprio nelle cose, insomma, cioè non avrebbe senso per loro ritornare indietro, cioè ritornare indietro significherebbe perdere anche quei consensi che loro hanno ottenuto proprio perché alternativi al Partito Democratico, cioè perché si pongono fuori dal Partito Democratico. Se dovessero rinunciare a questa caratterizzazione probabilmente ritengono che sarebbero penalizzati, cioè la loro strategia politica non verrebbe più compresa. Diamo un po' di voce a molti messaggi di ascoltatrici e ascoltatori. Yorgos dice: meglio che la rottura sia rimasta, altrimenti sarebbe stata una minestrina riscaldata. Ricordo pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. Michele dice: le cariatidi D'Alema e Bersani in company preferiscono dare il governo ai populisti di destra per un loro tornaconto personale con Renzi piuttosto di trovare una conciliazione. Poi Marco dice: entrambi hanno votato l'articolo 18, legge Fornero, nonostante ci siano moltissimi video su YouTube che gli si diceva anche a Speranza ed altri la gravità del problema, ora litigano. Poi Cristiano dice appunto che era inevitabile. Luigi, anzi è Maria che dice: il PD ormai è in partito di centro, non di sinistra, d'altronde ha perso la S, diceva prima 10 anni fa, il problema di quella parte del PD è che si è staccata perché si sente ancora di sinistra e che è troppo frammentata e sparirà come è successo a Rifondazione Comunista e ad altri. Francesco dice: differenze sul programma, il loro unico punto sul programma è abbattere Renzi. Insomma, tanti sono i pareri e molti altri messaggi, però risentiamo ancora Speranza perché parla di quello che dovrebbe essere il loro leader. Noi non vogliamo costruire una piccola casa, ma un campo largo e forte. Quanto a Piero Grasso, io penso di lui tutto il bene possibile. Penso che sia un riferimento, penso che in questa fase la sua figura sia anche esemplare per le cose dette e per le cose fatte, perché ci vogliono buoni esempi in politica, ma siccome è la seconda carica dello Stato non voglio in alcun modo tirarlo per la giacchetta. Però oggi sembrava quasi ufficiale, in realtà il portavoce di Grasso, presidente del Senato, ha detto non ha ancora sciolto la riserva sul suo futuro. Dici che si potrebbe procedere forse, Barbara Fiammeri, col sorteggio, visto che va di moda anche in Europa, sorteggio per estrarre il leader? della sinistra. Mi auguro per MDP che non si arrivi a questo, sinceramente. Abbiamo già visto quello che è accaduto per quanto riguarda la gente del mi sembra che la modalità decisioni strategiche, certo, in quel caso per l'Europa, in questo caso per un partito politico, vengano prese con la monetina. No, ma insomma, bando alle battute, è evidente che con ogni probabilità Grasso sarà il leader di questa alleanza, però ovviamente il Presidente del Senato, essendo la seconda carica dello Stato, non può in questo momento sentirsi incoronato da qualcuno all'esterno, farà i suoi passi. Abbiamo già visto che insomma delle posizioni le ha già prese, anche pubbliche, quindi solo questione di tempo ancora, insomma. Sì. Senti, invece Pisapia, leader di campo progressista, ancora lì, insomma, che non sa bene cosa fare, dice: noi, in una nota, noi siamo ostinati nella nostra missione, ovvero ricostruire un centrosinistra credibile in questo paese, ma purtroppo ancora oggi i segnali ci sembrano contraddittori. Pensiamo ci sia bisogno di una vera svolta e per questo serve che il perimetro delle alleanze sia condiviso e, come detto più volte, il PD deve decidere se guardare a destra o a sinistra. Quindi campo progressista mi pare che metta come condizione il fatto che non ci sia Alfano, i centristi. Sì, diciamo che poi sabato ci sarà una direzione di Alleanza Popolare, il partito appunto di Alfano, che anche loro dovranno decidere che fine fare. È chiaro che in un sistema elettorale di questo tipo, appunto come sta mostrando il centrodestra, che non solo i partiti diciamo principali, ovvero Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, stanno cercando alleanze vaste, la quarta gamba centrista, il partito animalista, perché vince i collegi maggioritari chi ha un voto in più, e quindi è determinante, perché poi i collegi maggioritari possono trascinare, anzi secondo chi studia i flussi elettorali, trascinano il voto anche nel proporzionale. Quindi da questo punto di vista è chiaro che il centrosinistra o insomma il PD e la sinistra sono penalizzati in questa corsa alle urne, ma ripeto, è una storia che era già scritta, cioè un finale che era già scritto. Quello che ancora ovviamente resta il grande punto interrogativo è se questa scelta di MDP pagherà poi nelle urne. Il rischio effettivo, come mi sembra poco fa diceva una nostra ascoltatrice, è che che fanno la stessa fine di Rifondazione, perché poi storicamente la sinistra in Italia, la sinistra forte, pensiamo al Partito Comunista, che appunto aveva raggiunto nei suoi momenti migliori il 30% e oltre degli elettori, si è sempre distinta rispetto ad altre forze di sinistra estrema nel resto d'Europa per un atteggiamento più moderato. Era grazie a questo, cioè come una sinistra che puntava al governo, non come una sinistra massimalista d'opposizione, che in Italia è sempre stata punita dagli elettori. Cioè quando Bertinotti strappò e praticamente fece cadere il governo Prodi, l'elettorato punì quella scelta escludendo Bertinotti e Rifondazione Comunista dal Parlamento. Barbara, abbiamo ancora poco tempo e vorrei sottoporti altre cose. Adesso dobbiamo essere sintetiche. Allora, il ricorso di Berlusconi, oggi prima udienza a Strasburgo per capire se sarà candidabile o no. Abbiamo detto che però la sentenza arriverà tra un po' di mesi. Vogliamo sentire Brunetta che cosa ha detto di Forza Italia. Noi chiediamo che le prossime elezioni siano elezioni nel rispetto delle regole della democrazia, con tutti i protagonisti in campo, e che per ragioni varie non si escluda il protagonista dei protagonisti, detto da tutti, che si chiama Silvio Berlusconi. Ecco, a proposito di Berlusconi, ieri in parte ne abbiamo parlato, però dice una cosa interessante. Tanto il suo avvocato Franco Coppi oggi si è detto ottimista su questa sentenza, vedremo. Interessante invece che cosa ha detto Scalfari, fondatore di Repubblica, ex direttore del quotidiano La Repubblica, ieri sera durante la trasmissione di martedì sulla 7, quando gli è stato chiesto se preferirebbe al governo Berlusconi o Di Maio. Ha detto: io preferirei Berlusconi. Lo vogliamo sentire questo passaggio di Scalfari? Se dovesse scegliere tra Di Maio e Berlusconi, affidare il paese a uno dei due, quale sceglierebbe? sceglierei Berlusconi. Ecco, lui che è stato sempre, diciamo, un po' l'acerrimo nemico, Berlusconi, tra loro, insomma, no? Antagonisti tra Repubblica e Berlusconi, che effetto ti fa il fatto che dica una cosa di questo tipo? Di Maio ha detto, ah bene, lo ringrazio Scalfari, perché in questo modo capiamo dove andrà il sistema, come ci boicotterà, insomma, e dice, allora dove stanno, che cosa è centrata quella campagna di 20 anni di Repubblica anti-berlusconiana, dopo il bavaglio, le 10 domande, le tante parole al vento sul conflitto di interessi, dice, com'è che adesso Scalfari, com'è? Lo chiedo a te, Barbara. Ma perché... Allora, perché io penso che Scalfari nella scelta dia in questo modo un giudizio ancora più negativo sui 5 Stelle di quanto lo dia su Berlusconi e la destra. Ed è questo, secondo me, il rischio principale che corre Matteo Renzi, in realtà, cioè che Berlusconi venga visto anche dall'elettorato di centrosinistra come l'unica alternativa vera, come l'unica alternativa ai grillini. Perché poi, cioè, perché poi non è questione gli elettori, il sistema d'accordo, cioè, però gli elettori non è che favoriscono il sistema, no? L'elettore poi sceglie in base a proprie convinzioni. Certo. E quindi è immaginabile che per molti italiani l'ipotesi di essere governati da un movimento comunque anti-europeista che non sta dando prova di buon governo in alcune importanti città, ovviamente può risultare questo elettorato attratto anche da proposte che fino a poco tempo fa, cioè quella del centrodestra, avversava. L'abbiamo chiaro. Visto un po' anche nei ballottaggi, anche se secondo tutti gli studi di sondaggi, in realtà sia per quanto riguarda la Sicilia che per quanto riguarda l'ultimo ad Ostia, che per carità è un campione piccolo, chi aveva votato PD ed era stato escluso dal ballottaggio si è riversato comunque sui 5 Stelle. Barbara Fiammeri, ci dobbiamo qui lasciare e presto ci ritroveremo. Ma tanto ne parleremo. Ciao Barbara, buona serata. Pausa adesso. Molti vostri messaggi, la politica tira sempre, come si dice. Però tra poco cambiamo argomento e parliamo di vaccini. Dice per esempio un ascoltatore, vediamo se lo ritrovo. Cara Roberta, proprio dei vaccini, non credi che se a comportarsi in questo modo, cioè a fare ricorso, fosse stata una ragione del Sud, ci sarebbe stata un'ondata di critiche antimeridionaliste, dice Fabio. Può darsi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, in questo momento siete al posto giusto, nel momento giusto e anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano, che vi sta accompagnando attraverso le notizie del giorno, come tutti i giorni, e anche con gli ospiti su certi temi da chiarire, da approfondire. Abbiamo appena parlato di politica, esce questa dichiarazione di Fassino, che ha fatto il pontiere in questi giorni senza però molto successo. Dice Bersani mette una pietra tombale al giorno, perché Bersani ha detto il fatto di rimandare un approfondimento, una modifica dell'articolo 18, una discussione sull'articolo 18 mette una pietra tombale con il PD, e Fassino gli risponde in questo modo. Molti ancora i vostri messaggi sulla politica, ma adesso cambiamo con un argomento che in realtà con la politica ha comunque a che fare. Vi ricordo che i temi principali sono, a proposito degli orrori nella guerra dell'ex Jugoslavia, l'ergastolo per Mladic. L'AIA lo ha condannato il boia di Srebrenica, responsabile del massacro di 8.000 musulmani. Poi dei vaccini parleremo appunto tra pochissimo. Berlusconi, che attende da Strasburgo oggi prima udienza la sentenza per capire se sarà candidabile o meno, ma arriverà nei prossimi mesi. Del centrosinistra abbiamo ampiamente parlato, di MDP e Sinistra Italiana, che annunciano nessuna intesa con il PD. Della sentenza della Cassazione, il matrimonio rom con una quindicenne è un reato, parleremo più tardi. Per il calcio ci sono sempre in campo Juventus e Roma per la Champions contro due spagnoli. Parliamo quindi di vaccini, con la sentenza della Corte Costituzionale che ha respinto i ricorsi della Regione Veneto sulla obbligatorietà dei vaccini. E la Consulta ha detto, oggi ha stabilito che il decreto del governo che impone le vaccinazioni obbligatorie a scuola è legittimo e quindi la Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni prospettate dai ricorsi del Veneto, perché secondo i giudici le misure adottate sono una scelta che tocca al Parlamento ed è volta a tutelare la salute individuale e collettiva. La ministra Lorenzin ha espresso grande soddisfazione, ha detto che appunto queste misure servono per la prevenzione e il decreto protegge la salute dei nostri bambini e di tutta la comunità. Zai ha detto: ne prendiamo atto, noi non siamo mai stati contro i vaccini, però volevamo che fosse una scelta. Dice: non abbiamo mai avuto posizioni contro, volevamo che non fosse una coercizione. Ne parliamo con Giovanni Rezza, che è direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottor Rezza, buonasera. Buonasera a voi. Ci dice a che punto, se vuol commentare brevemente questa sentenza, ma insomma non c'è molto altro da dire, a che punto è invece la copertura vaccinale in Italia? Dopo la copertura decreto. Vaccinale, come sappiamo, negli ultimi 2-3 anni era calata in maniera preoccupante. Questo è stato il motivo per cui il Ministro della Sanità ha deciso, sentito anche l'Istituto Superiore di Sanità e gli organi tecnici, di prendere questo provvedimento, che non è un provvedimento che si prende a cuore leggero, no? Perché si preferisce sempre tenere altre coperture convincendo le persone, però quando si vede che evidentemente non ci si riesce, allora a male estremi rimedi. E dai primi dati proprio non ufficiali, nelle regioni che hanno cominciato prima ancora che fosse praticamente varata la legge nazionale sull'obbligo, si comincia a vedere come ci siano degli effetti estremamente, estremamente positivi. È chiaro che c'è tutta una parte di popolazione che non è che sia contraria ai vaccini, c'è un 2-3% di persone che semplicemente per inerzia o perché hanno dei piccoli dubbi o perché non trovano il tempo non fanno vaccinare i propri figli. Chiaramente questa legge sarà un po' un grimaldello che ha fatto scattare un meccanismo virtuoso. Grazie dottor Rezza. Grazie, grazie a voi. Buona serata. Ricordo che il decreto, che è stato impugnato davanti alla Consulta, prevede 10 vaccini obbligatori per l'iscrizione a scuola da 0 a 16 anni, pena la non iscrizione fino a 6 anni, non possono essere iscritti a scuola se non sono vaccinati, e poi il pagamento di multe da 100 a 500 euro per i genitori dei bambini dai 6 anni in poi. Allora, adesso c'è la viabilità e poi passiamo a un altro tema. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E in pochi secondi vi ricordo le più importanti prima di passare al prossimo tema. A proposito degli orrori dell'ex Jugoslavia, il tribunale dell'Aia ha condannato all'ergastolo Mladic, il boia di Srebrenica, responsabile del massacro di 8.000 musulmani. Vaccini, ne abbiamo appena parlato, con la Consulta che respinge i ricorsi del Veneto e dice giusta l'obbligatorietà. Berlusconi, che aspetta da Strasburgo la sentenza sulla sua candidabilità. Oggi c'è stata la prima udienza, ma arriverà la sentenza tra mesi. Centrosinistra, MDP e Sinistra Italiana annunciano nessuna intesa con il PD. Sentenza della Cassazione, ne parleremo tra pochissimo. Cinema, nasce la categoria di film non adatti ai minori di 6 anni, e per il calcio. Poi ci aggiorneremo tra poco sulle partite. Allora, è arrivata oggi una sentenza della Cassazione su matrimonio rom, matrimonio con una minorenne. Dice la Cassazione, una ragazza di 15 anni, dice la Cassazione: anche se la cultura rom ammette le spose bambine, in Italia il matrimonio con minorenni non esiste e commette reato chi convive more uxorio, come fosse appunto in matrimonio, con una minore di 16 anni, anche se c'è il suo consenso. La Cassazione quindi ha confermato la condanna a un anno, con le attenuanti generiche inflitte dalla Corte d'Appello di Sassari, a un uomo, all'epoca 22 anni, che aveva sposato una ragazza di 15 anni con matrimonio rom. Questo poiché, dice la Cassazione, i minori di età non possono contrarre matrimonio. Allora, bisogna dire che una minima evoluzione c'è anche nelle comunità rom, sono ancora poche per ora le ragazze, un pochino le donne un po' più emancipate, però sentiamo l'intervista che ha fatto la nostra Cristina Carpinelli a una ragazza su questo tema. Da noi le ragazze devono stare a casa, devono imparare a cucinare per sposarsi, perché da noi si sposa a un'età piccola. Allora, però mia madre no, ha detto, cioè, è dall'inizio da quando sono nata che dice che no, non succederà, perché io voglio andare avanti con la mia vita, cioè farmi una vita. Perché tu vieni da una famiglia in cui, appunto, come hai detto prima, è stata fatta una scelta, cioè tu sì, devi studiare, devi continuare a studiare, quindi tu stai anche portando avanti un'idea anche di donna rom che un po' si distingue da quella che era la donna rom del passato. Sì, perché cioè la donna rom del passato praticamente si sposano proprio dopo i 13, 14, 15 anni, cioè già 16 anni è troppo in passato. Tanto però adesso, cioè anche adesso un po' succede ancora, ai 16 anni alcune ragazze si sposano, però cioè io ho pensato con i miei genitori, mio padre, mia madre, abbiamo detto cioè è una cosa un po' stupida, perché cioè se tu ti sposi, ok, magari ti trovi bene perché hai il tuo marito, le cose. In questo momento coinvolgo Carlo Rimini, che è docente di diritto di famiglia all'Università di Pavia e diritto privato all'Università di Milano. Rimini, avvocato, buonasera. Buonasera. Allora, questo vabbè, un caso diciamo abbastanza sporadico di chi riesce a emanciparsi, però diciamo che il tristissimo fenomeno delle spose bambine non riguarda solo i rom, riguarda varie etnie anche nel nostro paese. Che cosa dice la giurisprudenza italiana su questo? Allora, innanzitutto dal punto di vista della legge italiana questi non sono matrimoni. Questa è la ragione per cui anche nella sentenza di oggi la Cassazione parla di convivenza, perché dal punto di vista della legge italiana il matrimonio celebrato secondo il rito, secondo le regole di un'etnia, non è un matrimonio. Il matrimonio italiano è il matrimonio celebrato dall'ufficiale di Stato civile italiano oppure da un celebrante del rito cattolico o di un rito religioso ammesso. I riti etnici non sono tollerati dalla legge dello Stato, né i matrimoni rom né i matrimoni di altre etnie. Per quello che riguarda la legge italiana, per contrarre matrimonio bisogna essere maggiorenni, è possibile che il tribunale ammetta al matrimonio un minorenne, quindi non è corretto dire che il matrimonio del minorenne non è conosciuto dal nostro ordinamento, è conosciuto ma previa autorizzazione del tribunale e a patto che ci siano gravi motivi e che gli sposi abbiano comunque compiuto i 16 anni. Quindi il limite dei 16 anni è un limite che ormai è fondamentale nella nostra cultura giuridica. Al di sotto, non dei 18, ma dei 16 anni, nella nostra cultura giuridica e nel nostro diritto, non ci si sposa. Fra i 16 e i 18 ci si sposa per gravi motivi con l'autorizzazione del tribunale. Questa è la legge civile. Noi siamo di fronte a una sentenza di condanna penale, non per il fatto di avere celebrato un matrimonio, ma per il fatto che vi siano stati rapporti sessuali fra un maggiorenne, in questo caso, e una ragazzina di meno di 16 anni. Questo sulla base di una norma del codice penale che prevede che i rapporti sessuali con una persona che abbia compiuto i 14 anni ma non ancora i 16 anni sono vietati con le stesse sanzioni della violenza sessuale, quindi un reato molto grave, in una serie di casi fra cui la convivenza. Per cui queste due persone erano conviventi, sulla base delle regole della loro etnia si consideravano sposate, ma sposate non erano e quindi erano conviventi. La convivenza è una di quelle cause che rende illeciti e penalmente sanzionati i rapporti sessuali nella fascia di età tra 14 e 16 anni. È stato chiarissimo ed esauriente, avvocato Carlo Rimini, e la ringrazio. Una volta per tutte si è riconfermato appunto che i matrimoni rom non sono matrimoni e che tranne in casi eccezionali non ci si sposa prima di 18 anni. Grazie avvocato Rimini. Prego, buonasera. Grazie, buona serata. Ci fermiamo e poi dopo ci ritroviamo brevemente alle 22 e ci aggiorniamo anche con il calcio.